Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità allargando lo sguardo a tutti gli esseri viventi, con un'attenzione particolare agli animali non umani. È la puntata numero 592 e parleremo di bracconaggio e di pandemia, di plastiche nei mari, di nuove visioni del mondo. La colonna sonora di questa puntata è di Gabriele Palloni. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Stiamo vivendo in queste settimane una fase di passaggio nel rapporto con la pandemia di Covid-19. Con la riapertura delle attività, la ripresa degli spostamenti, le vaccinazioni di massa, stiamo procedendo verso un rapido ritorno alla normalità. Un bene sicuramente sul piano della vita quotidiana, meno se guardiamo alla scala globale, al rapporto fra le attività umane e il resto dei viventi. Perché proprio la normalità è il problema, vista la sofferenza del pianeta Terra. La stessa pandemia di coronavirus, con ogni probabilità, è dovuta alla distruzione degli ecosistemi, un fenomeno in corso da tempo e che favorisce il salto di specie dei virus dagli animali selvatici alle persone umane. Per ricordare a tutti che la lotta contro i virus passa attraverso un radicale cambiamento del modello di sviluppo e per un vero rispetto delle vite animali e vegetali, la LAV, Lega Antivivisezione, è scesa in piazza in 15 città con flash mob per rilanciare il suo manifesto Non torniamo come prima, pubblicato già un anno fa. Il manifesto contiene 6 punti chiave che vogliamo ricordare. Il primo, iniziamo da noi stessi, dal cibo che mangiamo. Preferiamo i cibi vegetali, perché carne, latte e uova fanno tagliare foreste, inquinano, causano sofferenza. Secondo, le aziende, a partire da quelle dell'alimentazione e dell'abbigliamento, devono essere rifondate sulla base di reali criteri di sostenibilità e responsabilità sociale. Terzo, fermiamo i mercati, le fiere, l'uso e l'uccisione degli animali selvatici ed esotici. Basta caccia, catture e riproduzione di animali per farne cibo, spettacolo, pelli e pellicce. Quarto, spostiamo i finanziamenti pubblici dagli allevamenti alla produzione di alimenti vegetali. Quinto, investiamo concretamente nella prevenzione delle malattie e nella ricerca scientifica human-based. Riconosciamo la sperimentazione con metodi sostitutivi all'uso degli animali come primo passo verso una effettiva libertà di ricerca. Sesto, tuteliamo gli animali domestici per aiutare le loro famiglie in difficoltà. A un anno di distanza, ha detto Gianluca Felicetti, presidente LAV, constatiamo che il nostro punto di vista ha finito per consolidarsi e affermarsi sempre di più, tanto che ormai non sono più solo gli animalisti a riconoscere il nesso fra distruzione di habitat, allevamenti intensivi, cattura e commercio di specie selvatiche ed esotiche ed eventi pandemici sempre più frequenti. Quello che manca ancora, dice Felicetti, è la piena e diffusa consapevolezza che su queste cause si possa tutti agire e fare la propria parte fin da subito in modo concreto, per cambiare le cose, uscire dal tunnel per non rientrarci domani e approdare a una normalità davvero nuova, non come prima, appunto. Smash, smash, crack, push, whack, tie another one to your racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll, nobody tells you where to go. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, tip, tip, tip, tip, tip. What if you did? What if you walk? What if you try to get on, baby? Hey, kid, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Baby. A proposito di Gianluca Felicetti, merita di essere letta e citata l'intervista che il presidente della LAV ha realizzato, questa volta da intervistatore, con Filelfo, l'autore della fiaba L'assemblea degli animali, pubblicata da Einaudi, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare in passato. L'intervista è uscita su Extraterrestre, l'inserto settimanale del manifesto dedicato ai temi ambientali. Vogliamo citare l'ultima domanda e l'ultima risposta dell'intervista. Cosa avremmo imparato dalla pandemia, chiede Felicetti, la catastrofe che da un anno ha messo in ginocchio il mondo? Si parla spesso in questi tempi, risponde Filelfo, del bisogno di un nuovo umanesimo, dimenticando però le premesse di quello originario. Umanesimo non significa mettere l'uomo al centro dell'universo come se fosse il padrone del cielo e della terra, ma renderlo armonico con il resto del mondo, che siano altri uomini, animali, piante, cristalli. Per questo alla parola umanesimo preferisco animalesimo, perché contiene la parola anima, senza distinzioni, poiché l'anima è di tutti e il copyright è detenuto, da sempre e fino a prova contraria, dalla parola animali. All he wants a cracker. I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me have a seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told, promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Only wants a cracker. Maybe she would like some. Ask me to untie her. She's a very nice for a few. Isn't me having seed? Let me clear up dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got to know. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Polly said, Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Un altro articolo vogliamo riprendere e segnalare. È uscito il 31 maggio sulla Stampa e l'ha scritto Mario Tozzi, geologo e noto conduttore TV. L'articolo si intitola Il mondo sotto scacco del petrolio, soffocato da microplastiche indistruttibili, e prende spunto da un fatto di cronaca. Le spiagge dello Sri Lanka coperte di detriti, plastica e combustibili provenienti dalla nave portacontainer Express Pearl, in fiamme per giorni al largo dell'isola. Un disastro ecologico terrificante. Tozzi a un certo punto descrive gli effetti delle microplastiche che sono, scrive, per la grandissima parte frammenti minutissimi e sempre più piccoli, tanto che il plancton oceanico è diventato ormai tutt'uno con i pezzetti di plastica, una chimera genetica gelatinosa e raggrumata. Il rapporto è 6 parti di plastica per uno di zooplancton. Pezzettini minuti di plastica che imitano perfettamente il plancton, dando vita al primo organismo naturale mutato per via artificiale. In appena mezzo secolo di vita, la plastica è diventata essa stessa plancton. È difficile, aggiungiamo noi, sottovalutare la portata di questa trasformazione, che è un annuncio di tossicità e in prospettiva di morte per la vita marina. Anzi, più che un annuncio, una realtà già in atto. L'urgenza di un radicale cambiamento di rotta nelle produzioni e nei consumi non potrebbe essere più evidente, come il fallimento delle attuali politiche di raccolta differenziata e riciclaggio. Bisognerebbe fare molto di più e soprattutto ridurre le produzioni di plastica all'essenziale, subordinando le esigenze dell'industria a quelle della vita sul pianeta. Un'eresia rispetto all'ideologia oggi dominante, guidata dal dogma della crescita. Servirebbe, come diceva Filelfo, un nuovo umanesimo, cioè un animalesimo. Nel difficile percorso che l'intera umanità sta compiendo all'interno dell'età delle pandemie, non è semplice orientarsi, sia per le nuove nozioni scientifiche entrate nel discorso pubblico, sia per il frequente ricorso da parte dei poteri pubblici a parole paravento, che dietro un linguaggio ecologista celano fenomeni e comportamenti che di ecologista hanno ben poco. È la giungla nella quale possiamo orientarci meglio grazie alla rubrica di Francesco Panier, Lessico dell'Antropocene, che oggi ci parla della nozione di cambiamento climatico. Ricordiamo che le voci precedenti sono a disposizione sul nostro sito restiamoanimali.it. Separate my side. I don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought it had been brought up the past. Won't you know? Il 2020, l'anno della pandemia, è stato anche l'anno più caldo da quando misuriamo la temperatura terrestre, un triste primato condiviso con il 2016. Ma questi record rischiano di durare poco, visto che tutti gli ultimi 6 anni sono anche i primi 6 dal punto di vista delle temperature. Il riscaldamento globale è il più evidente esempio di cambiamento climatico, un termine utilizzato per descrivere variazioni del clima del pianeta a diverse scale spaziali e temporali. Man mano che la colonnina di Mercurio sale nei nostri termometri, la febbre del pianeta si aggrava, con effetti a catena che vanno dalla fusione dei ghiacci polari all'acidificazione degli oceani, fino all'aumento di frequenza ed intensità di alluvioni e inondazioni. Secondo le Nazioni Unite dovremmo distinguere tra variabilità climatica, cioè quelle fluttuazioni naturali del clima terrestre, e cambiamento climatico, un fenomeno causato direttamente o indirettamente dall'uomo. Con l'industrializzazione, le emissioni di alcuni gas come il metano e l'anidride carbonica si sono accumulate in atmosfera, creando una sorta di scudo che intrappola il calore inviato dal Sole sulla Terra con i suoi raggi. Se queste emissioni non cessano subito, la temperatura media terrestre arriverà entro fine secolo oltre i 3 gradi rispetto a quella che avevamo prima del 1800. Questo fenomeno porterà a una crescita esponenziale degli eventi climatici estremi di cui dicevamo prima, con effetti disastrosi, che già stiamo vedendo, sulla produzione alimentare, sulla salute, sulla stessa morfologia terrestre. Tutte e tutti noi possiamo fare la nostra parte per evitare scenari da incubo, ma in questa rubrica abbiamo provato più volte a dubitare dell'affermazione secondo cui l'umanità intera debba essere ritenuta responsabile della crisi ecologica. Abbiamo invece cercato di spostare l'attenzione verso quel tipo particolare di umanità che crea e sostiene modelli di sviluppo basati sullo sfruttamento del pianeta e di tutto il vivente, ponendo le basi per il cambiamento climatico. Ragionare in questi termini potrebbe infatti aiutarci a sollevare il peso della colpa dalle classi sociali più marginalizzate e impoverite, così come dalle popolazioni che più subiscono gli effetti del cambiamento climatico, per esempio nei piccoli stati insulari che rischiano la sommersione. Se non è quindi più l'umanità in quanto tale, ma un tipo molto preciso di umanità ad aver creato le premesse e le conseguenze della crisi climatica, allora diventa più facile immaginare come uscire da questa spirale. Limitare la volontà di potenza delle élite e redistribuire le opportunità può essere un obiettivo importante per riportare l'esistenza umana all'interno della capacità della biosfera, nel rispetto di tutte le forme di vita e in armonia con loro. You cross. Il bracconaggio, come sappiamo, è un'estensione della caccia legale ed è ampiamente praticato nel nostro paese. Gli sforzi per arginarlo ci sono, ma i risultati sono stati finora piuttosto modesti, vista la sproporzione di forze in campo. Pochi controllori, molti praticanti e un territorio enorme da vigilare. La novità è che sta per entrare in gioco un progetto europeo. Si chiama SWIPE, acronimo di Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe, finanziato dal programma europeo LIFE, e ha come obiettivo fornire supporto diretto alle autorità pubbliche e a tutti i protagonisti della lotta ai crimini di natura. Lo strumento è la creazione di una banca dati solida e accessibile, la realizzazione di attività di formazione e advocacy e il miglioramento complessivo della cosiddetta governance di settore. L'intento è quello di aumentare sensibilmente il numero di denunce e di condanne. Nel progetto è coinvolto anche il WWF, che ne ha annunciato il lancio. Si è partiti, nell'ambito dell'azione di raccolta dati e informazioni, con un intenso scambio fra i centri di recupero di animali selvatici, gli organi di polizia e le procure. Quest'azione, sottolinea il WWF, è fondamentale per individuare quante volte e per quali cause il processo di individuazione del responsabile e la successiva punizione viene interrotto o addirittura non viene avviato. In questo modo, nello sviluppo del processo, si potranno individuare e mettere in atto le azioni necessarie per la formazione e la sensibilizzazione delle istituzioni, in modo da rimuovere gli ostacoli che oggi rendono questi gravi illeciti sostanzialmente impuniti. Fra questi ostacoli vi è sicuramente il bassissimo investimento in uomini e mezzi, così il WWF. Vedremo col tempo se questo progetto riuscirà a incidere davvero sullo status quo. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Per la ricetta della settimana abbiamo concesso una pausa al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni per aprire un varco una tantum a un cuoco amatoriale, il nostro Gianluca Masala, maestro di costruzioni musicali, il quale se la cava bene anche ai fornelli. è sua la ricetta di questa puntata. Buongiorno a tutti. La ricetta di oggi ha lo scopo di farvi conoscere e consumare una delle verdure della stagione primaverile che troviamo disponibile solo per un breve periodo. Si tratta degli agretti o barba di frate, una delle verdure più ricche di calcio ed altri minerali. Vi proponiamo quindi delle gustose linguine di agretti. Per la preparazione servono un mazzo di agretti freschissimi, linguine integrali o ancora meglio di grani antichi, passata di pomodoro, olive nere, olio extravergine di oliva. Pulite gli agretti separando le sottili foglie verdi dalle radici rossicce e dalla parte più dura dello stelo. Mantenete però la lunghezza delle foglie senza tagliarle in modo che si sposino meglio alle linguine. Mettete a bollire una pentola di acqua e sale e subito preparate la salsa di pomodoro in un wok con aglio a pezzettini ed olio extravergine di oliva. Aggiungete al pomodoro anche una generosa quantità di saporite olive nere. Quando la salsa inizia a bollire leggermente, aggiungete acqua in modo da avere una salsa un po' più liquida e continuare la cottura. Quando l'acqua bolle, calate la pasta, considerando però di tenerla in acqua per circa la metà del suo tempo di cottura. Nell'ultimo minuto calate gli agretti nell'acqua bollente per una veloce scottata. Prelevate la pasta e gli agretti con una pinza da cucina e metteteli nel wok per continuare la cottura nella salsa di pomodoro con una bella fiamma vivace. Non buttate l'acqua di cottura della pasta, che può essere utile da aggiungere nel caso in cui il pomodoro si asciugasse troppo prima che la cottura della pasta sia ultimata. È importante però che nell'ultimo minuto di cottura il contenuto del wok risulti asciutto e che si attacchi anche un po' al fondo, per ottenere una pasta quasi croccantina, che fa da contrasto alla freschezza degli agretti. Per chiudere, e sempre a proposito del cibo e del peso della filiera alimentare nei processi di degradazione delle condizioni di vita sul pianeta, vi proponiamo una frase di Greta Thunberg, la giovane attivista per la giustizia climatica. Se continuiamo a produrre cibo come facciamo, distruggeremo anche gli habitat della maggior parte delle piante e degli animali selvatici. Sono il nostro sistema di supporto vitale. Se li perdiamo, saremo persi anche noi. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Per questa settimana è tutto. Vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianluca Masala, Anna Granata e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra 7 giorni, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.